Capitolo 8. Cosa facciamo con la ragazza? La domanda spunta dietro le spalle, mentre Bogdanov si aggiusta il bavero della giacca e controlla il risultato nello specchio. Un uomo austero, ancora prestante, baffi e barba a punta spruzzati di grigio. Chi conosce la sua età dice che dimostra 10 anni di meno. La prova che le trasfusioni ringiovaniscono davvero. Non possiamo tenerla all'istituto così, insiste Natalia, senza documenti validi, senza sapere niente di lei. L'immagine riflessa della moglie compare accanto alla sua. Più vecchia di 8 anni, anche i suoi portati bene. Gli scambi di sangue sono efficaci persino contro la gotta. Una cosa la sappiamo, ribatte lui. Il test con la tubercolina è positivo. Stamattina arrivano gli strisci e le colture. Se la malattia è attiva, bisognerà trovarle un posto in sanatorio. Natalia gli porge la cravatta e Bogdanov se la annoda sotto il colletto. Ora al lavoro. Si scambiano un bacio, da anziani coniugi, ancora capaci di comunicarsi la complicità di una vita. Una vita clandestina, reclusa, contraddittoria e sofferta, a tratti perfino felice. È stata una forma d'amore, no? E ancora lo sarà, per altri 30 anni. Un amore diverso, certo, da vecchi che hanno imparato a completarsi. Due vecchi rivoluzionari. Questo sono e questo saranno, con gli inevitabili cambiamenti, perché solo ciò che muta si conserva per sempre. Per le celebrazioni ancora nessun invito? Natalia è preoccupata, si vede, per via del clima che aleggia sul paese. I giorni incupiscono, l'opposizione scalpita, il decennale non sarà una festa. Bogdanov si volta e le sfiora il viso con le dita. Comunque, non saprei cosa mettermi. Ridono, simili anche in questo, una delle tante affinità maturate in 30 anni. Il taglio degli occhi, le pieghe sulla fronte, le macchie sul dorso della mano. Due sposi arrivano a condividere anche l'aspetto, come fratello e sorella. Nulla di strano. Per la tecnologia vivere insieme è una forma di congiunzione e quando due sistemi si uniscono, se non sono troppo diversi, tendono ad amalgamarsi. Ma poiché l'uomo è corpo e mente assieme, la congiunzione delle esperienze produce effetti fisici, segni particolari di coppia. Bogdanov attraversa la stanza e imbocca le scale, diretto ai laboratori del piano terra. Nessuno lo inviterà alle celebrazioni per il decennale della rivoluzione. Per alcuni della vecchia guardia lui non è più un marxista da oltre 20 anni, dai tempi della disputa coi menscevichi, ancor prima che con Lenin, della grande spaccatura nel Partito Operaio Socialdemocratico Russo. Che fare? Esigere che gli scrittori siano militanti o accontentarsi di sostenitori? Impugnare le armi o tenerle da parte? Forzare la storia o attendere gli eventi, convinti della loro ineluttabilità? I menscevichi erano la minoranza, ma potevano contare su Georgi Plekhanov, il grande padre del marxismo russo. L'uomo che aveva appreso la dottrina dalle labbra di Engels, come non si stancava mai di ricordare. In quel campo si sentivano invincibili e non tardarono a lanciare il guanto di sfida. Un lungo articolo di filosofia, firmato Orthodox, un nome, un programma. Quel vostro Bogdanov, cari bolscevichi, è un apostata. Il suo empiriomonismo tradisce gli insegnamenti di Marx. 5 novembre 1904, la prima scomunica di una lunga serie. Da quel giorno Plekhanov prese a chiamarlo signor Bogdanov, per sottolineare che non lo considerava più un compagno. Tutto era importante allora, anche un appellativo. Tutto lo è ancora. Quanto possono essere lunghi 20 anni? Tante cose sono cambiate, da quando era l'esilio a tenere unita la banda. Una compagnia di sovversivi già navigati che non si aspettavano dalla vita altro che persecuzione, galera, stenti. Il prezzo per mandare la storia nella direzione giusta. Il laboratorio è ancora deserto. La stanza è occupata da due tavoli ingombri di apparecchi e provette. Un'intera parete ospita l'archivio. Nell'aria ristagna odore di alcol etilico e formalina. Bogdanov siede davanti al microscopio, ma invece di abbassarsi sull'obiettivo, si volge verso la finestra, in cerca di uno squarcio di cielo. Dalla torretta di Villa Vasa si vedevano i tetti di Cuoccala. i prati e i boschi, e nelle giornate limpide uno scorcio di mare. Un panorama che toccava condividere con una famiglia di api. L'alveare ronzava sotto la grondaia, ma nessuno si sognava di rimuoverlo. «Per solidarietà con le operaie», scherzava Leitesen, il padrone di casa. In realtà, d'estate era più la paura dei pungiglioni, mentre l'inverno ce le si scordava, perché non davano fastidio. I dettagli affiorano dalla memoria più vividi del motivo per cui li si rammenta. Alcuni genuini, altri soltanto camuffati da ricordi. Il colore delle assi dietro la stufa, la maniglia delle porte, perfino il motivo floreale sulle stoviglie. E poi il grande larice, sotto il quale germogliavano le discussioni e un fitto sottobosco di partite a scacchi. Allora nessuno immaginava che nel giro di 10 anni la guerra e la rivoluzione avrebbero abbattuto l'impero. Quell'impero che li aveva sloggiati lì, nel Granducato. Non proprio fuori dai confini, ma quasi, nella terra dei laghi e delle balze di granito. Così appare la Finlandia in Stella Rossa, oltre la vetrata dell'eteronave diretta su Marte. San Pietroburgo laggiù, in fondo al golfo, appena una 50 chilometri. I coniugi Leitesen abitavano in città e si trasferivano alla dacia nel fine settimana. Allora toccava stringersi più del solito. Avevano un figlio di 10 anni, Morris, e con lui in giro per casa era difficile stare tranquilli. Le sue scorribande, su e giù per le scale, erano un motivo in più per ripetersi: meno male che non sono padre. Ma la sera, dopo cena, era bello inventare storie per lui e rispondere alle sue domande su draghi e viaggi spaziali. Durante la settimana, la compagna Krupskaya faceva la spola ogni giorno per portare al marito le notizie dalla capitale, i giornali e le lettere dei compagni. Lenin se ne stava chiuso in una stanza, nella parte più isolata della casa, a scrivere e scrivere. A volte riceveva i compagni di partito che venivano a discutere le questioni salienti. Al piano di sopra, una ghiacciaia di spifferi e finestre difettose, Natalia aveva sistemato 2 camere. Una per la notte, poco più larga del materasso steso sul pavimento, l'altra per leggere e studiare. Tutto il resto era in comune: cucinare, mangiare, litigare. Spesso le due donne dovevano costringere i mariti a staccarsi dalle carte e fare un po' di rivoluzione con la ramazza in mano. La loro amicizia nacque allora, quando pilotavano la scialuppa dei naufraghi lontano dagli scogli della disillusione. Si sentono tuttora di quando in quando, ma il segreto della loro intesa era la vicinanza fisica, e adesso la distanza rimarca le diversità. Natalia Bogdanovna Korsak non aveva potuto iscriversi alla facoltà di medicina. Le donne allora non erano ammesse. Aveva trovato lavoro come infermiera nell'ambulatorio del padre di Bazarov. Gli anni di Tula e delle serate al circolo culturale operaio nella grande fabbrica di armi. 8 anni più vecchia di lui, dice di essersi innamorata prima di saperlo. Il matrimonio si era celebrato fuori città, per non dare nell'occhio, ma di sicuro tra i presenti c'era qualche sbirro in incognito. Lei era diventata la signora Malinovskaya e il signor Malinovsky era diventato Bogdanov, il patronimico della sposa usato come nome di battaglia, per omaggiare la parità di coppia. Nadia Konstantinovna Krupskaya, invece, l'università era riuscita a frequentarla. Aveva studiato pedagogia, per poi insegnare nelle scuole serali e di giorno dedicarsi alla donna lavoratrice. Un'intera generazione di marxiste russe si è formata sulle pagine di quel libro. Anche lei più vecchia del marito, ma di un anno soltanto. Anche loro sposati, in chiesa, l'unico modo che ci fosse per poter vivere insieme. Anche loro senza figli. La differenza più grossa è nel punto di arrivo. Natalia è rimasta infermiera. Nadia è membro del comitato centrale e presidente del Glavpolit Prosvet. Siamo fortunate. Se fossimo nate 50 anni prima, non avremmo potuto essere quello che siamo. Così Natalia una sera, mentre si infilava sotto le coperte dopo lunghe discussioni. Sono fortunate le donne che verranno, perché ci sarete state voi. Nadia e Natalia rimasero in ottimi rapporti anche durante il dissidio tra i mariti. Lenin terminò di leggere i 3 volumi di Empiriomonismo e un giorno sotto l'arice disse chiaro il suo parere. Aveva ragione Plekhanov. quell'interpretazione di Marx puzzava di idealismo. La vecchia bugia che la realtà è nella nostra testa, una creazione della mente. Tuttavia, concesse una tregua. Mettiamo da parte la filosofia e concentriamoci sull'azione politica. Facile a dirsi, ma il salto dall'una all'altra è breve. Più breve di quanto potesse immaginare. Giugno 1907. Il primo ministro dello zar scioglie la Duma per tornare al voto con una legge truffa. Riunione d'emergenza. Che fare? Il compagno Bogdanov propone di boicottare le urne. Quanti sono d'accordo? Tutti i bolscevichi, a eccezione di Lenin. Per lui il Parlamento è un'arma borghese da usare contro la borghesia. Dopo un lungo dibattito riesce a spuntarla. La sua mozione passa con il consenso di tutti i bolscevichi. Il Partito Operaio Socialdemocratico parteciperà alle elezioni. Eppure qualcosa di inaudito era accaduto. Per qualche ora Vladimir Ilich, detto Lenin, era finito in minoranza a causa di Aleksandr Aleksandrovich, detto Bogdanov, l'empirio monista. «Ti farà la guerra», disse Natalia, seduta in poltrona, con il giornale sulle ginocchia, al freddo di quella dacia finlandese. «Alla prima occasione ti distruggerà». «Mi rispetta». «O forse ti teme. Stiamo dalla stessa parte. Proprio per questo». La porta del laboratorio si apre. Entra un infermiere con un vassoio. «Le culture di Liev Koldomazov», dichiara. Le appoggia sul tavolo, firma un foglio e rivolge a Bogdanov un cenno d'intesa, ma il direttore lo nota appena, perso com'è nei ricordi. Al congresso di Londra, quella primavera, i bolscevichi avevano ancora una linea comune. Servivano armi e militanti pronti a usarle. Durante la rivoluzione fallita, di 2 anni prima, gli operai di San Pietroburgo avevano sperimentato la violenza dell'esercito. Mai più si sarebbero fatti trovare impreparati. Non bastavano le bombe artigianali di Leonid Krasin e nemmeno il denaro raccolto da Gorky, il grande scrittore, grazie alla sua fama internazionale. Perfino negli Stati Uniti aveva trovato sostenitori pronti ad aprire il portafoglio. Ma non era sufficiente. Bisognava prendere i soldi là dove stavano. A Londra la proposta fu bocciata. I menscevichi non volevano più espropri. Niente bombe, niente insurrezione armata, quelle sono robe da anarchici. Piuttosto occorreva stringere i rapporti con i sindacati. In quella tetra chiesetta di Hackney le parti si invertirono. I bolscevichi si ritrovarono in minoranza. Trotsky si mise in mezzo, tentando di mediare. Come possono cambiare le persone? Sul traghetto di ritorno, in mezzo alla Manica, sotto un cielo carico di nembi, Koba lasciò cadere una domanda sulla scia delle onde. «Cosa diciamo a Camus?» Da mesi i compagni georgiani controllavano un trasporto valori che, a intervalli regolari, attraversava Tiflis con una scorta non troppo nutrita. Camus e la sua banda erano pronti ad assaltare il convoglio con la dinamite e nella confusione prendere il denaro. «Quanto denaro?» domandò Krasin. «Mezzo milione di rubli». «Facciamolo», suggerì Lenin sul treno che li riportava in Finlandia. Le mani si alzarono, approvato all'unanimità. A Koba spettò il compito di portare a Camus la buona novella. Koba e Camus, i georgiani, amici d'infanzia, si erano fatti espellere insieme dal seminario. Da preti mancati a rivoluzionari il passo non è troppo lungo. Da preti a banditi ancora più breve. Rubavano le armi per i bolscevichi, le procuravano con ogni mezzo necessario. Camus non era un brigante da romanzo di Dumas. Non aveva bisogno di ammantare le proprie gesta di romanticismo. Agli arresti resisteva, dalle prigioni evadeva. E quando, fallita la rivoluzione, i cosacchi lo avevano torturato per ottenere nomi e indirizzi, non gli avevano tolto una parola. Era l'uomo giusto per la più grande rapina che avessero mai tentato. Serviva un compagno che tenesse le comunicazioni, qualcuno che non fosse noto alle autorità del Caucaso. Leonid Volokh aveva combattuto in marina, conosceva le armi. Era un militante determinato, aveva quell'anello al dito per colpire più duro. Aveva tutto e non aveva niente. Era perfetto. Leonid accettò, entusiasta, e partì per la Georgia con il compagno Koba. «Non farti ingannare dalle apparenze. Quello zoppica e ha un braccio leso, ma è scaltro come pochi. Sei in buone mani, non perderlo di vista. Un buon consiglio. Lenin, invece, se ne è accorto tardi che il georgiano era uno da tenere d'occhio. Nel frattempo, Koba ha cambiato nome di battaglia. Uomo d'acciaio. Stalin. Ma questa è storia recente, non la storia di prima. Non quella della grande rapina di Tiflis, col suo bottino di 340.000 rubli, al prezzo di svariati morti e della nevrastenia di Leonid. Secondo la leggenda, Camus frecciò fuori dal caos alla guida di un carro, sul quale i suoi uomini avevano trasferito il malloppo. Andò dritto incontro alla polizia, che arrivava in soccorso. Si alzò a cassetta, mostrando la sua sfavillante uniforme da ufficiale di cavalleria, e senza un attimo di esitazione gridò: «Porto in salvo il denaro! Correte alla piazza!» Quelli non se lo fecero ripetere, e Camus fu di parola. Portò il denaro al sicuro, in Finlandia.